Sei pochissimi longobardisti in Italia, oramai. Dicevi stamani due. No, forse qualcuno di più, voilà. Sì. Qualcuno di più, ma insomma, proprio tecnicamente longobardisti sono in due. Santini qualche volta lavora dentro, come intruso. Nel mondo longobardo. Allora, la parola a Conti. Longobardista dunque, ma proprio per così, per evitare, non dico di ripetere le stesse cose, ma perché penso che il problema qui proposto trascenda decisamente l'ambito della storia longobarda, parlerò anche di longobardi, come ovvio, è pressoché impossibile. Longobardista che fa delle incursioni, diciamo, nel regno burgundo, le restituisce. Le restituisce, le ha fatte. È una tarda vendetta storica. Dunque, un longobardista che fa in un certo senso incursioni nel regno burgundo, direi nella, anche nell'habitat baiguaro e dalla Marche, perché appunto l'arco alpino nell'alto medioevo è stato parzialmente popolato da questi gruppi etnici. Quando il segretario di questo istituto mi ha chiesto il riassunto di quello che avrei detto, ho indugiato alquanto e riluttato un poco. Indugiato alquanto perché ero impegnato, lo sa bene il nostro amor, negli ultimi ritocchi di una fatica disperata, perché siamo arrivati tardi, avremmo dovuto consegnare ai congressisti del prossimo convegno di Spoleto, che si apre il 27 settembre, come penso tutti sappiate, un volume sul Ducato di Spoleto e più generalmente sulla storia istituzionale del Regno Longobardo. Che io non leggerò più. Che lui non l'ha letto, pensate, in bozze per fare la prefazione, e quindi è un vero martire della longobardistica. E siamo arrivati tardi, quindi no. Ero immerso nei ritocchi dei manoscritti e anche nelle correzioni di quel po' di bozze che si sono degnati di mandarci, e quindi ho indugiato e ho riluttato un poco, e la ragione è che in fondo il riassunto costituisce in un certo senso una falsa riga, una traccia che mi impone, contrariamente a quello che mi è consueto, se non proprio di leggere, perlomeno di seguire un testo, mentre io avrei in un certo senso preferito essere libero di spaziare in un campo che in un certo senso, posso dire, mi è abbastanza consueto. Allora tra estro, o se volete tra fantasia e disciplina, una volta tanto ho scelto la disciplina, vale a dire da una rielaborazione, un ampliamento di quella falsa riga che ho già presentato non molti mesi o sono, qualche giorno fa, e infatti non è stata curata la traduzione. Sì. Per colpa mia. No, ho visto che perlomeno ho visto ciclostilato copia in italiano, non ha importanza. Ah, in italiano, sì. Traduzione, vabbè, non assolutamente, colpa mia, sono arrivato tardi, non posso muovere a debiti altro che a me stesso. No, ma sommario. Cioè, sommario, sì, vabbè, sì, comunque. Riassunto, va nella lingua del relatore. Allora capito male io, sì, che sì, sarebbe sì, stato. No, non tutto... sei. Non sono. Non sei in colpa, non posso dir male di te questa volta. Beh, lo potrai dire poi. Dopo vedremo. Dopo una seconda lettura del libro sulle. Allora. Non so se ne vuoi martire. Bene. Nessuno speri comunque che nel breve volgere di un'ora o poco meno, voglio io sperare non poco più, che penso sia il limite della umana attenzione e suggiungerei anche della ragionevole sopportazione, possa non solo sceverare, ma anche soltanto sfiorare tutte le vastissime questioni che potrebbero ricadere nell'ambito di romani e germani nei territori alpini, antitesi politica, imitazione istituzionale e conflitto sociale, sia pure limitatamente ai secoli VI e VIII. Mi limiterò quindi ad accennare ad alcune questioni che mi sono sembrate particolarmente significative, ed anche queste non le potrò sceverare totalmente, proprio trascegliarò alcuni elementi. È evidente che un procedimento di questo genere comporterà una certa apoditticità, spero che non ho l'illusione né la pretesa di persuadere alcuno, però spero che attraverso lo scritto, il corredo di note, io sono sempre un po' avaro come noto di note, comunque che attraverso lo scritto e il corredo di note qualche cosa di più e soprattutto possa riuscire un pochino più persuasivo. L'intrusione delle genti germaniche tra quello per lo più autoctone, ma largamente anticamente romanizzate, delle regioni alpine ebbe ripercussioni sia generali che particolari, sia politiche che giuridiche e sociali, alquanto diverse secondo epoche e circostanze, onde possono essere distinte e definite cinque età, che nella loro successione dalla metà del secolo V si estendono sino ad includere il secolo VIII. La prima di queste, che ha virtualmente inizio con il trasferimento del regno Burgundo nella Sapaudia, avvenuto, come tutti sanno, nel 443, e che età che qui in un certo senso costituisce quella delle premesse, è quella che noi potremmo definire l'età della convivenza amichevole. Benché l'inveterata e largamente ingiustificata idealizzazione dei Burgundi, cui ha singolarmente corrisposto la demonizzazione dei Vandali, altrettanto indebita, se non ancora di più, benché questa, dicevo, abbia indubbiamente concorso a far considerare con benevolenza eccessiva le condizioni determinatesi nell'ambito del loro regno, è innegabile che il loro avvento fu, per ragioni che in parte si vedranno, sopportato dalle popolazioni preesistenti non solo senza danni eccessivi, ma con una buona disposizione determinata sia dalla notizia e dall'imminenza di ben altre sciagure. L'impero era allora non solo sulla difensiva, ma in ritirata su ogni fronte, sia dall'atteggiamento degli stessi Burgundi, federati, reverenti del retaggio romano e tesi a far presto dimenticare quanto aveva determinato il trasferimento coattivo e punitivo del loro regno. Quando poi Zenone, per tornare dall'Oriente, il pericolo costituito da Teoderico e dai suoi, li rivolge contro Doacre e costoro ebbero presto avuto ragione di lui, altri barbari si affacciarono nelle valli alpine. Erano però anche questi federati, con un vincolo per certi rispetti anche più stretto di quello dei Burgundi, e anzi, non solo non si erano spostati per una misura disciplinare, ma nominalmente per compiere una missione restauratrice dell'autorità della Romana Repubblica. È verisimile pure probabile che la generale soddisfazione con la quale sarebbe avvenuta la sistemazione dei Goti nelle terre settentrionali della diocesi italiciana sia stata parzialmente supposta ed esaltata da esagerazioni panegiristiche. E non di meno per troppe ragioni e considerazioni innegabile che la presenza ostrogota dovesse, attesi i tempi, essere accettata come la iattura minore. Teoderico, d'altro canto, tanto è precipitoso, insistente ed irreducibile nel perseguire il riconoscimento imperiale della sua autorità regia e risoluto nel riservare agli ostrogoti le armi, tanto è rispettoso per gli ordinamenti romani, al punto che, salvo, è probabile, ristretti ambiti di diritto previato, una sola legge ha vigore nel regno, quella romana, indenne per giunta da riduzioni o da adattamenti. Piano, piano. Mi preoccupavo perché l'ora incalza, andrò più. Attenderete di più. Non abbiamo da andare a vedere le tombe, gli scavi di Roger. Vabbè, ciò non toglie che io non voglio approfittare della pazienza altrui. Ad onta di individuali soprusi, che certo vi sono inevitabilmente stati, e ad onta di attriti occasionali, che ragionevolmente non sono del pari mancati, Burgundi ed Ostrogoti potevano effettivamente apparire i compagni migliori per una convivenza ed una coabitazione che la prorompente forza dei barbari e l'estenuata resistenza dell'impero avevano generalmente imposto ed andavano imponendo. Un po' meno felice dunque di quanto sia stata solitamente dipinta, specie da contemporanei e prossimi posteri, scopertamente tendenziosi o malamente illusi, la convivenza amichevole ebbe breve stagione. Per le sedette mene di Bisanzio, oltre che per la barbarica instabilità degli intenti delle genti germaniche, sostanzialmente fallito il sistema egemonico tentato da Teoderico per la difesa del suo regno, per il quale il baluardo naturale delle Alpi non appare adeguatamente sicuro, indulgendo i Burgundi ad imprese che, attentano alla sicurezza delle terre dell'impero e delle genti più o meno strettamente suo collegate, tra Romani e Germani riemengono diffidenza e avversione. Le inesauste nostalgie filoimperiali dell'aristocrazia romano-italica, inoltre, la pongono con Teodorico in un conflitto via più insanabile, che, sebbene essenzialmente politico e socialmente limitato, ben presto dilaga, anche per il risvolto religioso, succedaneo però e strumentale, e si trasforma in una generale antitesi etnica, tanto che la memoria collettiva, in poco meno di mezzo secolo, si è impadronita dalla figura del re ostrogoto, divenuta simbolica in due opposte leggende emblematiche ed inizialmente fiorite, a quanto parrebbe, proprio in ambiente prealpino ed alpino. Con gli ultimi anni del regno di Teodorico, vale a dire dal 522 in poi, ebbe tra Romani e Germani inizio l'età del passaggio dalla convivenza al conflitto. Formalmente ancora federati e fedeli, come, specie da parte burgunda, si protesta con enfatica e compiaciuta solennità, i regni ostrogoto e burgundo agiscono in una crescente autonomia, che ha sempre più i caratteri della piena sovranità. Le condizioni delle popolazioni loro soggette non si discostano ormai molto da quelle di coloro che soggiacciono alle altre genti germaniche. I truci eventi degli anni 522-23 danno l'avvio ad un periodo veramente tragico, che si concluderà solo un secolo ed oltre più tardi. Considerate le circostanze generali e particolari onde avvengono la ritirata burgunda e l'avanzata ostrogota, non segnano sostanziali mutamenti nelle condizioni delle locali popolazioni romanizzate, ormai per lo più vittime impotenti e detestate delle contese dei loro protettori che sono o che si sono fatti i loro dominatori. La conversione burgunda al cattolicesimo può accendere le brevi speranze e suscitare le titubanti simpatie di coloro tra i romani che non ne scorgono il movente di fine essenzialmente politico e che pertanto si illudono che la comunanza di fede possa por termine alle ragioni del conflitto. Alla chiaroveggenza della sagacia di Teodorico, la manovra non riesce a celare la sua vera natura ideale, politica e diplomatica, e per questa, e non per passione religiosa, ne è più o meno segretamente avversata. Nel corso del secolo VI, tuttavia, l'arianesimo, che pur non smarrisce del tutto il suo significato di politico di avversione all'impero, perde quel carattere generalmente e precipuamente discretore dei suoi nemici, che gli era stato insito nel secolo V e che lo aveva fatto abbracciare da quasi tutti i barbari, dalla migrazione sospinti all'urto con quanto restava della Romana Repubblica. Rimasti ariani o più o meno presto e direttamente divenuti cattolici, i barbari, superati la fase del servizio federale, grazie al quale hanno meglio potuto conoscere ed anche assorbire la civiltà romana, sono dall'intransigente volontà restauratrice costantinopolitana posti nel dilemma tra un cedimento totale, che l'occasionale lusinga di un patto di collusione o alleanza non riesce a celare, e l'aperta ostilità con l'impero, che, ad onta delle diverse speranze e contro ogni evidenza ostinatamente conservate dai barbari stessi, non è in alcun modo disposto a riconoscere e ad accogliere nel suo sistema quegli stati territoriali che costoro vengono per la prima volta costituendo per effetto della promozione civile seguita al tapasso nelle terre centrali romane. Le armi bizantine, ben presto logorate o distolte, raggiunsero come è noto solo i Vandali e gli Ostrogoti, sfiorarono appena i Visigoti e più tardi, senza molta fortuna, si rivolsero contro i Longobardi. Fortune militari a parte, nel corso del secolo VI emergono nell'Occidente già romano due antitetiche linee politiche fondamentali. Quella dell'impero, che mira alla riconduzione di tutti i barbari in un servizio federale che sia prodromo di una loro piena ed irreversibile sottomissione, quello delle monarchie germaniche, che faticosamente e avventurosamente stanno superando il fondamento demico del loro potere e che nei loro disegni di sovranità territoriale possono vagheggiare un fedus, ma non consentire ad una pur larvata ed attenuata sottomissione. Le schermaglie e le astuzie politico-diplomatiche, le avventure militari e l'adeguamento spregiudicatamente duttile alle situazioni sul momento più favorevoli complicano, ma non vanificano, lo sviluppo concreto delle due direttrici fondamentali ora accennate. Gli unici veramente determinati nella contesa sono i re e gli imperatori. Dietro ed accanto a loro intenti e consensi sono tutt'altro che omogenei e compatti. Non sono pochi, infatti, i capi e i guerrieri barbarici che, lusingati o irretiti, sotto l'insegno dell'impero scorgono la collocazione preferibile e forse anche definitiva. Dai primi cedimenti ostrogoti ai duchi longobardi della fine del secolo VI gli esempi non mancano. Così come non soltanto servi fugaci, facinorosi e disperati mostrano di preferire il dominio dei barbari alla sovranità imperiale romana. Come fu palese nella resistenza di Napoli alla sede di Belisario e come pare emergere dalla più tarda vicenda di altre città dinanzi all'incalzare dei Longobardi, i ceti mercantili, medi o in qualche modo ascendenti, temono e avversano l'impero e anzitutto il suo tremendo sistema economico e tributario. Solo l'aristocrazia e per ragioni in parte analoghe alla Chiesa di clero sono idealmente ed attivamente fautori della Romana Repubblica, senza tuttavia una generale concordia. All'assenza dalla collaborazione con i nuovi regni non fu disposta solo parte dell'aristocrazia gallo-romana, ma anche di quella italica che per origine, sede e aspettative fu risolutamente filo imperiale più di ogni altra. La tradizione dei Cassiodori è in un certo senso e in un certo limite ripresa dai ministri romani dell'età giuliofina, ed anche tra l'altro clero vi fu chi ancor tardi fu immediatamente disposto all'accordo, se è vero che il vescovo Felice di Treviso dal Boino ottenne garanzie per la sua chiesa. Il secolo VI fu indubbiamente un secolo di conflitto, particolarmente acuto nella diocesi taliciana, ma questo solo sommariamente corrispose alle divisioni etniche, siccome fu intimamente politico, anche se ebbe forti connotazioni sociali ed ampi risvolti religiosi, divampando tra i gruppi i ceti tesi alla costituzione delle nuove compagini statuali o disposti all'accordo con queste e coloro che aspirano alla conservazione o alla restaurazione dell'antico ordine. Ogni giorno più inattuabile. Sul grande conflitto storico si innestano naturalmente gli altri minori e locali, dei quali la falcidia delle fonti ha tolto quasi ogni notizia, così che vi sono secoli e territori per i quali resta virtualmente muta quella storia locale che è tanto preziosa ed essenziale per vagliare le teorie e le ipotesi generali. Con la fine del regno Burgundo, avvenuta negli anni 532-34, e con la distruzione del regno ostrogotico, ufficialmente e formalmente conchiusa nel 554, ma in realtà del tutto compiuta solo oltre un decennio più tardi, l'età del passaggio dalla convivenza al conflitto nei territori alpini si muta nell'età delle occupazioni castrensi e delle incursioni. L'eliminazione del loro regno non condusse alla cacciata né tantomeno allo sterminio dei Burgundi, divenuti invece sudditi dei Franchi, che di loro si valgono per estendere ulteriormente l'ambito sudorientale dei loro domini e per meglio destreggiarsi nelle alterne vicende della guerra greco-gotica. Il principale teatro di questa rimase sempre lontano dalle Alpi e le loro popolazioni paiono in gran parte risparmiate dalle sue dirette conseguenze, negli ultimi tempi singolarmente penose. Non sfuggono però ad altre iatture e vessazioni. Nel 536, infatti, gli Alamanni, che non temono più il regno ostrogotico del quale avevano dianzi riconosciuto la preeminenza, scendono a devastare e a saccheggiare la Liguria e la Venezia, vale a dire l'Italia nord-orientale, ove le popolazioni romaniche sono ancora una volta quelle che sostengono il peso maggiore della loro furia, pur se questa non risparmia gli ostrogoti, molti dei quali hanno lasciato sedi e famiglie per correre contro i bizantini. L'indegno Teodato non vuole e non può rintuzzare l'attacco, ed anche il suo successore, Vitige, certo più energico, riconoscendo per necessità i patti stipulati con i Franchi, alla mercé di costoro abbandona i lembi settentrionali del regno, tra il 539 e il 540, occupati anche con l'ausilio delle armi burgunde. Si è discusso, e si discuterà ancora sull'ambito effettivo e preciso dell'espansione franca e della sua puntuale collocazione cronologica e sulle sue fasi. È certo comunque che tra la fine del 539 e l'anno seguente tutta la cerchia alpina è in mano franco-burgunda e che il re ostrogoto, Totila, interamente assorbito dalla lotta contro i bizantini, si piega ad accettare temporaneamente la situazione creatasi. Il regno e i suoi guerrieri, generalmente accorsi su altri fronti, lasciano al loro destino le popolazioni della regione alpina, tornata di frontiera vulnerabile e indifesa. Fu un tragico destino di ruberie e di violenze, mentre anche colà doveva giungere la fama sinistra delle dure situazioni dagli ostrogoti compiute contro coloro che stimavano e che in parte erano veramente loro nemici. tra Romani e Germani non poteva riaprirsi un solco profondo, segnato e scavato dal contrasto di due culture incompatibili piuttosto che da una piena e cosciente antitesi etnica. Tra saccheggi continui e rovine si rinfocola l'odio timoroso ed atavico dell'agricoltore e del pastore inermi e sedentari per il guerriero rapace emigrante, e questi a sua volta, specie se ossessionato dalla fame e dal pericolo o disperato dal vacillare della sua fortuna, ovvero dello Heil, tanto cara alla tradizione germanica, istintivamente esalta la sua avversione sprezzante per l'imbelle, che facilmente presume il subdolo e segreto fautore del suo nemico. In quegli anni tragici, gli ultimi della guerra greco-gotica, ogni gente e ogni schiera è nemica di tutte le altre. I franchi e i loro sodali, incuranti di patti e promesse formali, combattono i goti come i bizantini. Il contegno di Teodeberto e dei suoi nell'estate del 539 fu veramente emblematico. L'armata di questi ultimi, largamente barbarizzata, tratta sovente da nemici coloro che nominalmente dovrebbe liberare. I razziatori si scagliano su chiunque si pari loro dinanzi. Benché non solo tra le truppe imperiali, ma anche negli eserciti franco-burgundi di potessero essere elementi estranei alle genti germaniche, nella coscienza collettiva l'identificazione tra guerriero, sopraffattore germano fu facile e piena, specie laddove le popolazioni locali, isolate o abbandonate a loro stesse, erano maggiormente vittime indifese della completa carenza dell'autorità e dell'azione dello Stato. Sarebbe difficile, naturalmente, nelle poche e scarne fonti superstiti, trovare di ciò eco o traccia precisa. Nel mondo leggendario, meno contaminato delle popolazioni montane, si intravede tuttavia una fievole memoria di quei lunghi incubi, anche se questa ora è spesso confusa dalla sovrapposizione del ricordo di un'altra analoga epoca tragica, quella delle scorrerie saraceniche che, come è noto, non risparmiarono davvero i recessi montani. Benché l'occupazione dei Franchi non sia stata così stabile e estesa come pure è stato creduto, i territori alpini sono quelli che hanno più lungamente ed ampiamente soggiaciuto ad essa. Il loro dominio, o piuttosto il loro controllo militare sull'Italia padana e prealpina, che nel 552 crea gravi imbarazzi ai bizantini, è eliminato o neutralizzato nel 556. Ma la sovranità imperiale sull'intero crinale alpino è del tutto teorica, non essendo pochi castra rimasti in mano franca anche nella regione altesina. Tra i maggiori caposaldi recuperati e consolidati dai bizantini dovevano esservi Susa, Castelmuri in Val Bregaglia e Castelnanno in Val di Non, nella zona alpina, l'isola Comacina e Castelmarte, donde ha preso nome la Martesana, in quella prealpina. Come avanti si diceva, il silenzio e la faccia delle fonti non consentono di individuare puntualmente la vicenda delle avanzate e delle ritirate franco-bizantine. Si può tuttavia ricavare l'indicazione sommaria, ma significativa, che insediamenti e possessi fossero tutt'altro che stabili, se ancora 20 anni più tardi, quando tra l'altro nella contesa si sono inseriti anche i Longobardi, franchi e bizantini, formalmente sempre alleati nei più vasti disegni politico-militari, si fronteggiano nelle valli alpine con reciproci colpi di mano, come quello dell'occupazione franca di Castelnanno che diede luogo alla sfortunata reazione del famosissimo Comes Langobardorum de Lagare e poi del Duca Longobardo di Trento. Si comprende facilmente come un lungo e diuturno stato di tensione, quando non di aperta ostilità, cui le popolazioni agricole e pastorali assistono succubi e impotenti, non disponesse a riconciliazione degli animi. Chi non teme per gli averi teme per la vita, e miseri ricchi sono accomunati nel terrore dei guerrieri, senza distinzione di campi e di stirpi, perché gli eserciti della Romana Respubblica sono brutali come quelli dei regni barbarici, perché Eruli, Goti, Burgundi, Alamanni, Franchi, Langobardi non mutano contegno secondo le insegne sotto le quali si trovino a militare. Negli ambienti, tuttavia, e soprattutto nei ricchi e negli aristocratici, ai timori e alle preoccupazioni per la sopravvivenza e i suoi mezzi si aggiunge l'angoscia per l'eversione economico-sociale che il dominio barbarico può provocare, come ha ben dimostrato il regno di Totila, la memoria del quale resta circonfusa da un'esecrazione furente ed inestinguibile. Entro certo limite ed in certo senso ripercorrendo le orme di Siagrio, nella loro autonomia i presides curiensi preservano, certo, e difendono l'autorità e la tradizione romane, ma la loro opera di conservazione è forse prima e più sociale che politica, giacché nell'ambito diplomatico-militare la disparità di forze impone accordi spesso e largamente compromissori. Il goto Sisige, del resto, che aveva preferito arrendersi ai bizantini piuttosto che ai franchi, aveva, magari in parte inconsciamente, avuto di mira la tutela, cui i superstiti goti come i romani potevano essere parimenti interessati, degli equilibri etnico-sociali faticosamente raggiunti e ad onta di tante tragedie e inimicizie evidentemente rimasti nelle Alpi delle valli occidentali. Circa gli stessi anni, altrove, un ecclesiastico colto per i suoi tempi, secondo Ninon, ha messo poi ad alto fastidio ed anche per questo difficilmente presumibile un parvenu, in un modo certo più astratto, ma non perciò meno significativo, testimoniava il suo attaccamento ideale politico a quella romana repubblica che era la sola capace di garantire l'universalità a cui tendeva la sede patriarcale d'Occidente e al tempo stesso la disponibilità di quei redditi e di quei diritti feudali che davano forza e sostanza al ceto d'onde veniva. Esposto alla cupidigia dei barbari per i suoi beni mobili e alla dissoluzione del suo sistema di proprietà immobiliare, siccome strano ed inconcepibile per la primitiva e dissentanea tradizione giuridica di costoro. Nella lunga convivenza forzosa dunque, piena di lacerazioni e contrasti, i ceti superiori e più fortunati appaiono a quelli che hanno le ragioni maggiori per avversare veramente i germani. Gli altri sembrano avere piuttosto motivi di temerli, tanto più che dal 574, se non già da qualche anno prima, ai precedenti incursori e riazziatori si sono aggiunti i Longobardi, nel 569 penetrati nella pianura padana ed insistenti nelle puntate oltralpe. L'opposizione romana ai germani non fu pertanto generale risoluta, come apparve la storiografia o piuttosto la passione politica del secolo scorso, e nemmeno fu irrevocabile. Quando difatti la sovranità nominale di Bisanzio sarà ridotta ad una pura finzione, quando soprattutto il fallimento di offensive e di intrighi avrà dissolto ogni speranza di un effettivo ritorno dell'autorità imperiale, nelle terre dell'antica diocesi taliciana l'aristocrazia, meno degli altri ceti temendo la concorrenza sociale, è quella che più e meglio si accorda con i nuovi dominatori, il cui avvento poté invece essere riguardato con favore da coloro che poco o nulla avevano da perdere. Prima però dovette trascorrere l'età della dominazione ostile. I Longobardi, come è noto, mai ebbero il controllo militare dell'intero versante meridionale delle Alpi. È persino dubbio se ciò debba essere posto tra i loro obiettivi mancati o non sia piuttosto da scrivere tra i loro limiti. Circostanze ed eventi farebbero credere l'uno e l'altro insieme. L'espansione sulle Alpi inizia infatti con un certo ritardo, non viene perseguita in modo sistematico ed urta contro l'ostilità franca che non sempre riesce a superare. Le valli di Aosta e di Susa, per citare i casi più clamorosi, rimasero sempre in mano franca, così come l'alta valle dell'Adige fu baiuvara. I castra bizantini poc'anzi ricordati appartengono all'impero ancora negli anni di Tiberio II, 578-582, e circa gli stessi anni, fortunosamente e faticosamente, avviene l'espansione longobarda nelle valli prealpine ed alpine. Questa, iniziata dunque dalla fine del regno di Clefi e del principio dell'interregno, si esaurì ai tempi di Autri e di Agilulfo, avvenne cioè nei momenti nei quali i Longobardi si sentirono ed anche furono maggiormente stretti dall'ostilità dei bizantini e di quanti supponevano ed erano anche loro fautori più o meno diretti ed attivi. Le fonti sono concordi nel ricordare le stragi dei Preti e degli Ottimati, benché la furia longobarda non dovesse abbattersi con la stessa violenza sugli uni come sugli altri. Vi è anzi ragione di credere che uccisioni e spogliazioni siano state esagerate per l'estrazione aristocratica ed ecclesiastica dei primi informatori diretti dei cronisti donde poi il diacono trasse. Secondo di non, che già d'altro proposito si era lasciato vincere dallo sconforto ed ingannare dall'angosciata esaltazione altrui, non riferendosi a quanto pare alla sua terra ma a quelle vicine, anche se poi Paolo Diacono sembra aver inteso tutto il regno longobardo, con parole rimaste famose, siccome divenute sibilline per l'isolamento dal contesto avvenutole con la desunzione paolina, ricordò come i nobili romani, scampati dagli eccidi e ai turbinosi e turbolenti primi anni dell'espansione ducale, i reliqui del notissimo passo della Historia Longobardorum, fossero resi tributari per hospites divisi, ut tertiam partem suarum frugum Longobardis per solverent. L'affermazione che ha nel passato infiammato le passioni ed eccitato uno spirito esegetico difficilmente eguagliabile, al di là delle sue implicazioni socio-economiche, scopre un aspetto in un certo senso sorprendente e altamente significativo. anche laddove i Longobardi avanzano in piena ed aperta ostilità e quindi in completa rottura di qualsiasi patto con l'impero, antico come recente, generale come particolare, non sanno sfuggire allo schema di acquartieramento e di approvvigionamento proprio del Fedus, che li ha indelebilmente segnati. Anche nei momenti di maggior tensione politico-militare perdura la ricezione istituzionale, che si muta in imitazione. I duchi, che la scomparsa del re ha reso politicamente e giuridicamente sovrani, benché per i capi germanici la sovranità sia sempre molto attenuata, avrebbero, avanzando da nemici, potuto far quanto virtualmente avevano fatto ed andavano facendo i re delle altre genti, riservare a sé l'alto dominio del suolo intero. Paradossalmente, invece, in quel momento sono in Occidente i più risoluti avversari di Bisanzio quelli che, per la povertà primordiale della tradizione costituzionale, con maggiore aderenza ne seguono il modello, persino nella misura del tributo preteso, singolarmente limitata, non solo a confronto di tante altre, ma più in relazione alle circostanze nelle quali avveniva. A rigore, i Longobardi che manu militari occupavano le terre dell'impero non erano ospites ma hostes. Essi, nondimeno, con primitiva noncuranza delle distinzioni politico-giuridiche, persistevano a considerarsi ancora gli ospites che erano stati e che in fondo bramavano tornare ad essere, sebbene in modo tale che fosse compatibile con la loro insofferente fierezza. Dall'identità delle situazioni concrete, ricreata dalla manifesta incapacità di escogitare nuove forme di insediamento e di dominio effettivo, gli invasori ricavano un'automatica eguaglianza teorica, entro certi limiti evidentemente condivisa anche dai loro osservatori, se i cronisti contemporanei poterono anche per loro disinvoltamente usare il termine di ospites, ormai tradizionalmente antonomastico per i guerrieri in un modo o nell'altro insediati nelle terre dell'Occidente già romano. Proprio perché divenuto usuale e non più strettamente tecnico-giuridica, la definizione di ospites non è per sé indicativa dell'immutata sussistenza di forme magari residuali del vecchio regime dell'ospitalitas. La voce, insomma, non avrebbe dovuto ingannare o suggestionare chi che sia. Essa invece è carica di reminiscenze e suscettibile per giunta delle più ardite estrapolazioni in funzione delle diverse teorie, alimentate se non nate dagli opposti e noti orientamenti politico-ideali, ha sempre conservato un valore che si potrebbe dir magico, che ne ha condotto alla coartazione e al fraintendimento. Tra i passi, con ogni verisimiglianza da Paolo puntualmente derivati da Secondo, ve n'è notoriamente un altro, ove, giusta l'uso della fine del secolo VI, ma non dell'inoltrato secolo VIII, agli ospites longobardi di nuovo si accenna, ma non per questo si deve considerare i due necessariamente storicamente connessi, tanto che unitaria se non unica ne debba essere l'interpretazione e che se ne debba postulare o trovare chiarimento e complemento reciproco. Per questo secondo passo, come avrà ognuno inteso quello altrettanto famosissimo Populi tamen ad gravati per Langobardo sospite sparziuntur, non solo narrativamente ma storicamente distinto e staccato dal primo, non sembra vi siano ragioni per circoscriverne il valore ai territori padani pedemontani, ai quali soltanto intendeva plausibilmente riferirsi l'altro. Esso appare infatti non solo relativo a tutte le popolazioni e i tempi della restaurazione della monarchia già passate sotto il dominio longobardo, ma pertiene più alla loro sorte politica che alla loro condizione giuridico-economica. È fondata opinione comune che Paolo Diacono abbia da secondo di non, tra l'altro, desunto l'intera narrazione della restaurazione della monarchia, con adeguamenti palesemente riduttori, tanto che la continuità logico-narrativa ha subito iterate interruzioni, nate da probabili equivoci sostanziali e a loro volta matrice di altri. Detto dunque che i Longobardi, dopo essere rimasti per 10 anni senza re, comuni consiglio autari regem sibi statuerunt e che questi ob dignitatem chiamarono Flavio, come poi tutti i suoi successori, Paolo Diacono ricorda che in occasione della ricostituzione della monarchia i duchi conferirono ad essa la metà delle loro sostanze, perché appunto potesse provvedere alla ricostituzione del suo apparato burocratico-amministrativo e quindi, immediatamente soggiunge Paolo Diacono, populi tamen ad gravati per Langobardo sospite sparziunto, passando poi a descrivere le condizioni di relativa quiete nelle quali, non di meno, sane, versava il regno. Il collegamento delle parole ricordate con quanto precede appare narrativamente un po' arduo, per effetto forse di un'omissione mal risarcita, così che è certo più facile e probabilmente più integra la connessione con quel che segue. La riorganizzazione del regno e del suo paese, palese avvio alla stabilità relativa di struttura di sede, potevano apparire, e in certi casi anche essere, per le popolazioni romane italiche un gravame ulteriore. Sebbene non tanto tributario, non pare che il regno abbia allora né mai avuto un sistema di esazioni propriamente fiscali, quanto giuridico-politico, anche se non sembra davvero si possa più credere ad una generale riduzione dei romani in stato servile o semiservile. I popoli tamen aggravati, il tamen che in tal caso avrebbe un valore fortemente avversativo, potrebbe spiegarsi in relazione al fatto che le loro condizioni peggioravano, benché la corte e la burocrazia regia trovassero sostentamento nelle sostanze conferite dai duchi, che poi sempre gli italici le avevano prese, appaiono divise tra i longobardi in seguito e per effetto della ricostituzione del regno. La circostanza, insieme alla scelta di popoli, in luogo di possessori e soccoloni, suggerisce un'interpretazione politica della celebre notazione, che la renderebbe ancor più preziosa ed illuminante di quanto fosse nell'opinione comune, che la vuol relativa alla definitiva attribuzione ai dominatori longobardi degli agricoltori gravati della corresponsione del terzo dei prodotti. Secondo di non che, essendone contemporaneo, conosceva bene le situazioni, ha voluto tramandare che, ad onta della spinta unificatrice del regno, pur restava però una struttura intimamente federatizia, le popolazioni assoggettate erano suddivise in modo tendenzialmente stabile e definitivo tra i longobardi ospites, vale a dire tra coloro che hanno invaso e che dominano le loro rispettive contrade, come un tempo federati, altre ne avevano occupate nominalmente protette. In altri termini, pur risorgendo il regno, i romani italici restavano suddivisi ed assegnati alle congerie dei longobardi che avevano preso stanza nel loro paese e che si andavano organizzando per il governo di esso, che è quanto dire andavano costituendo i ducati territoriali. Si tratterebbe pertanto della più antica e coeva testimonianza del trapasso, ancora in corso, dalle strutture demiche agli ordinamenti territoriali che i Longobardi, come gli altri popoli, compivano per effetto della promozione civile conseguente al passaggio nelle terre centrali dell'impero, ossia alla loro elevazione dalla tribù allo Stato. Questo aspetto, o piuttosto questo processo, non poteva naturalmente essere avvertito da Paolo, che così, senza ben penetrarne il senso, ha ripreso le parole di Secondo, che invece, per averlo sott'occhio, doveva averlo confusamente intuito, vedendo come una turba vagante, e si potrebbe dire magmatica, di guerrieri invasori, lentamente, ma irreversibilmente, si trasformasse in una schiatta di guerrieri dominatori. La suddivisione degli italici, conseguente al primo vero assetto del ducato e del regno, se da un canto gli ha aggravati, passandoli da un occupante ad un dominatore, dall'altro, secondo ne è testimone, li ha messi dopo lunghi e dolorosi anni a riparo dalla gran parte di quelle violenze spesso terribili che sempre si accompagnano all'avanzare degli eserciti, e non soltanto barbarici. Quell'evento ha dato così un primo avvio all'età della faticosa ricerca dei nuovi equilibri, così evidente nei territori alpini e specialmente in quello tridentino, che pure ebbe nei riguardi dell'espansione longobarda una vicenda tutt'affatto particolare. Suffragata da vari elementi, è difatti opinione degli storici moderni che essa venisse non per una repentina conquista, ma attraverso forme graduali, favorite anche da accordi ed accomodamenti locali. Sebbene la regione tridentina, insomma, sarebbe la regione tridentina, insomma, una di quelle nelle quali inizialmente passarono i nuclei longobardi che si distaccavano dal resto della loro gente, se non già negli ultimi mesi del regno di Alboino, certamente durante quello di Clefi ed ancor più dopo la scomparsa della monarchia. È stato giustamente osservato che in tal modo si spiega come Franchi e Bizantini, attestati nei castra circostanti, non abbiano ingaggiato una immediata lotta di contenimento, e si spiega anche come vi potesse essere in quella regione, se ne è già fatta allusione, chi, come secondo di non, potesse nella situazione obiettiva trovare una giustificazione per le proprie scoperte nostalgie per l'impero. E si spiega infine come qui i ceti elevati ed abbienti abbiano patito una rovina socio-economica minore che altrove. L'instabilità somma delle adesioni politico-militari longobarde nel giro di pochi anni, come in altre regioni, diede luogo ad un sollecito mutamento di situazioni di confini. Avanti 577, infatti, e già insediata a Trento Duca Ivino, che fu uno dei più risoluti paladini dell'indipendenza longobarda. Ciò naturalmente non significa che allora fosse già del tutto eliminato quel diaframma di castramontani, nominalmente soggetti all'impero, ma in realtà autonomi, che i longobardi separavano dai franchi e che non pare fossero disposti a cedere agli uni o agli altri, siccome il dominio barbarico avrebbe comportato comunque gli effetti che più il possessore stemeva. Non tanto e non soltanto l'orgoglio civile, ma una comprensibile ragione di natura sociale ed economica faceva i romano-italici della regione tridentina aborrire quella condizione di tributari cui avevano dovuto sottostare i loro pari dei territori padani e cui non poteva in alcun modo essere assimulata la corresponsione della terza ai Longobardi, che erano veri ospiti in quanto al servizio dell'impero, sopportate da credere come il male minore. Benché per molti, per troppi rispetti precario, l'assetto materialmente stabilitosi negli anni 574 e seguenti rimase non di meno sostanzialmente inalteratosi nel 590, se si escludono le modificazioni marginali e locali imposte dalle ragioni strategiche, come ad esempio l'espugnazione longobarda del Castrum Anagnis passata ai Franchi. Come a Paolo ricavato da Secondo, quando parvero i Franchi divenuti sicuri alleati dell'impero nella distruzione del regno longobardo, che per questo sembrò e fu prossimo all'estrema rovina, non poche delle roccaforti della regione tridentina, sin lì formalmente rimaste sotto la sovranità dell'impero, si indussero a aprire le porte a costoro, non senza però aver preteso garanzie giurate. Paolo non dice, anche perché forse già Secondo ne taceva, che cosa si volesse in tal modo proteggere. Difficile fossero le vite dei difensori perché queste, nel caso di una dedizione spontanea, non dovevano correre alcun pericolo, tanto più che negli usi del tempo erano generalmente fatte salve anche quando avveniva un'espugnazione. I timori e le preoccupazioni dovevano logicamente vertere intorno agli averi, per sottrarre al sacco i beni mobili e per preservare i diritti sugli immobili, che è quanto dire difendere l'ordine sociale ed economico, cui erano più degli altri interessati gli abbienti, che sono poi quelli, si vedrà, più duramente colpiti. I Franchi, infatti, dimentichi o incuranti delle solenni promesse, privarono tutti quanti del primo e massimo dei diritti, quello della libertà personale. Cives universi, scriveva Secondo, e non longobardi o milites, si badi, abeis, scilicet a Francis, tutti sunt captivi. Bastando per questo la loro inveterata aspirazione al dominio dell'Italia padana ed alpina, non v'è ragione di credere che i Franchi trattassero ostilmente i difensori e i rifugiati dei castelli tridentini perché costoro si erano ricordati o avevano collaborato con i Longobardi. La difesa, per contro, non doveva far solo salve le necessità vitali, per le quali si poteva trovare riparo anche con la fuga, ma aveva intenti più vasti e permanenti. In un ambito più ristretto e in una situazione più drammatica ed avventurosa, gli ottimati tridentini tentano la via dei paesi descurienzi. Non vogliono tanto salvare un vessillo ideale quanto conservare l'ordine civile e sociale che sotto di esso si cela. Se l'ammontare veramente notevole di alcuni riscatti, ascesi sino a 600 soldi, è indizio sicuro che tra i prigionieri vi fossero uomini ancora veramente ricchi, l'importo decisamente modesto di tanti altri denota che i primi non erano i soli a temere comunque l'evento longobardo. Anche i mediocres sembrano per il momento preferire quei territori bizantini dai quali di lì a poco altri di loro fuggiranno disperati. Ancora una volta è dunque evidente come siano antistoriche e pericolose le categorizzazioni troppo rigide e le divisioni schematiche troppo assolute. Si è detto, e appar vero, che sono per lo più ciechi elevati ad avversare e temere il dominio barbarico, cui sono invece relativamente propensi quelli meno fortunati. Non si deve però e perciò rifiutare di constatare che pur tra questi ultimi emergono orientamenti diversi, dettati magari da contingenze locali, come del resto e non soltanto nell'età austrogotica vi furono aristocratici disposti a collaborare con i regni barbarici. A questo punto, da questo riguardo, il pensiero corre naturalmente ai ministri romani dell'età autariana e agilucina. Per suggerimento, piuttosto che per intercessione di costoro, ma anche in coerenza e in armonia con i suoi intenti di costituire un regno veramente territoriale, che pur rimasti sempre vaghi ed embrionali hanno segnato e distinto l'età sua, Agilulfo dispone il riscatto dei prigionieri al quale aveva inizialmente ed autonomamente, a quanto pare, provveduto i vescovi della zona, senza peraltro riuscire a liberare tutti i deportati, che, per quanto estranei al popolo dominatore, il re ora mostra di considerare sudditi come gli altri coperti dalla sua protezione. Fu un primo tentativo di conciliazione che poi le vicende del regno in gran parte vanificarono. Le mene bizantine, infatti, ed anche quelle papali, tese alla disgregazione del regno longobardo, o perlomeno alla sua resa incondizionata dalla sua sottomissione all'impero, sortirono i soli effetti di screditare politicamente Teodelinda ad Aloaldo e i loro collaboratori, e di riaccendere gli antichi rancori e sospetti del tradizionalismo longobardo. I tempi tornavano così ad essere assai poco propizi per un avvicinamento e per un'intesa tra i due maggiori gruppi etnici del regno, minacciato dall'impero e tormentato dalla contesa dinastica e dalla lotta faziosa. Come prigioniera dei suoi angusti limiti tradizionali, la monarchia longobarda manca il compito storico di formare un ceto militare e burocratico che la sostenga ben oltre quanto possano le forme arcaiche, anche se adattate, della sua sequela. Così, distolta e assorbita dall'ostilità bizantina virtualmente permanente e dai suoi diretti ed indiretti effetti disgregatori all'interno del regno, essa non riesce ad assolvere anche l'altro parimento vitale, quello della fusione delle stirpi che inizia ed avviene per lo più per effetto della conciliazione religiosa. Questa, che nel regno longobardo fu, come ormai noto, inizialmente opera della predicazione tricapitolina e poi di quella del clero orientale riparata in Italia, non ebbe ovunque lo stesso esito storico-politico, né fu in ogni caso presupposto necessario per una convivenza concorde tra Romani e Germani, così come la comunanza di confessione non conduceva automaticamente ad una facile intesa. I franchi cattolici, si vide, poterono essere temuti come i longobardi ariani, anche più, almeno per certi rispetti. Non va d'altro canto dimenticato che ben spesso le confessioni cristiane sono di fatto appena sovrapposte ai paganesimi primigeni, rimasti ben vivi di specie nelle campagne e tra le montagne, tra i gruppi meno civilizzati di una stirpe come dell'altra, e che perciò all'antitesi religiosa si può colà avvertire solo eco riflesso, tanto più come dove l'arianesimo ed il cattolicesimo non rispondano ad un programma politico, ma dipendano quasi unicamente dalla vicenda della conversione. Il fattore religioso ebbe infatti incidenza maggiore nei territori inclusi nelle organizzazioni politiche più vaste, delle quali condivisero gli indirizzi generali, mentre si attenua e si stempera in quelli dotati di larga autonomia o rimasti entro assetti dotati di scarsa estensione o coesione. Poiché inoltre l'imitazione barbarica dei modelli romani non rimase circoscritta all'ambito istituzionale e politico, ma si estese anche all'ordinamento sociale, e circa la fine del secolo VII, se non forse prima, i Germani assumono la condizione di Cives, l'assimilamento tra le genti delle due culture provvedì più rapidamente nelle zone urbane ed in quelle ad esse adiacenti e connesse. Entro un ambiente un giorno relativamente omogeneo si vengono delineando, anche per effetto del differente processo di assimilazione e diffusione di Romani e Germani, quelle regioni storiche, spesso limitate ad una valle o anche a parte di essa, che poi nel corso del Medioevo assunsero compiutamente la fisionomia peculiare mantenutasi nei giorni nostri a questi riguardi sciaguratamente livellatori. Quel che tuttavia sembra aver maggiormente segnato il destino della conciliazione, dell'assimilazione e finalmente della funzione di Romani e Germani è stato il sistema e poi mito politico del Ferus, presto trascurato dai regni veramente forti, virtualmente strano a quelli troppo piccoli, deboli o tardi o decaduti, ma ricercato e più o meno realisticamente perseguito da tutti gli altri. Al Ferus si connetteva la hospitalitas, disciplinata dalla legge di Arcadio del 6 febbraio 398, che trova tuttavia le applicazioni più varie e divergenti, paradossalmente anche proprio in quegli acquartieramenti che avvenivano con l'escorto consenso formale dell'impero e per sua determinazione ufficiale. I Visigoti nelle Gallie e poco più tardi i Burgundi nella Sabaudia ottennero infatti 2/3 delle terre agricole e, per quanto meno certamente, i primi 1/3 dei coloni e degli schiavi, oltre la metà dei boschi e dei pascoli. L'abbandono di molti fondi, la relativa esiguità numerica degli ospites ed anche la facoltà dalla legge concessa ai proprietari romani di scegliere quanto avrebbero dovuto cedere mitigò per lo più le materiali conseguenze della hospitalitas. L'atteggiamento dei provinciali nei confronti di essa non pare però unicamente ed essenzialmente determinato da queste, ma piuttosto dalla generale disposizione che i Germani dimostravano nei loro riguardi. Mentre i Burgundi, che pur percepivano quote considerevoli, erano accolti favorevolmente o perlomeno erano subiti pacificamente, gli Alani dovevano con le armi ottenere l'hospitalitas nei territori della Loira loro assegnati e mentre pochi anni più tardi i Burgundi ancora estendevano il loro dominio nel Lionese col consenso dei loro abitanti, il regno burgundo per effetto del Fedus per il regno burgundo però il Fedus è il manoscritto che ho gettato giù senza molti ritocchi. Per il regno burgundo il Fedus, per le ragioni inizialmente accennate, rimase sempre necessario ed essenziale. Ai Romani coerentemente erano fatte condizioni ignote altrove, anche nel regno ostrogotico, ove la concordia tra le stirpi fu per Teodorico un programma politico oltre che un valore ideale. Anche se dalla fine del secolo V il Fedus ha ormai perso la massima parte della sua efficacia pratica e quindi della sua diretta funzione politico-militare ed è quindi ridotta a pura funzione, esso non di meno conservava un indiscutibile valore politico ideale, in quanto e siccome significava appartenenza formale alla Romana Repubblica. L'attacco franco, cui seguirono la distruzione del regno burgundo e la sua annessione al sistema merovingio, dissipò bruscamente illusioni e convenzioni ormai obsolete e certo ebbe le tragiche conseguenze immediate che sempre si accompagnano all'avanzata degli eserciti. Ma l'antico retaggio, ormai veramente romano-germanico, non andò del tutto disperso ed ebbe parte non piccola nella vigorosa autonomia della Borgogna franca. Nella diocesi italiciana al Fedus toccò una sorte non molto diversa. Rotto, come è noto, dalle truppe di Odoacre al rifiuto della Terzia, fu dagli ostrogoti ricercato in modo più stabile e ampio. Benché costoro fossero molto più numerosi dei soldati di Odoacre, la cessione delle terre, cui non potevano i possessori sfuggire, fu dal famoso Liberio, fatta in modo che l'onere ne riuscisse ragionevolmente tollerabile. I contrasti tra ostrogoti e romani, se ne accennate ed è noto, ebbero origine più politica che economica, anche se poi avidità ed interesse furono i primi ad esasperarli. Anche nei momenti più bui, i re ostrogoti continuarono, si è detto, contro ogni evidenza a sperare nel Fedus, che restava il loro ideale o sogno politico. Costretti ad una lotta senza quartiere, spinti da questa gesti disperati ed odiosi, tendono unicamente a ricomporre l'antico ordito, ormai irrevocabilmente prigionieri di quella civiltà contro il creatore del quale debbono loro malgrado combattere. Ragioni individuali a parte, e salve esplosioni occasionali determinate dall'atrocità della guerra, non vi fu un generale odio razziale dei goti per i romani, anche se i primi ricambiarono la detestazione furente di quell'aristocrazia che tanto aveva fatto per la loro rovina. I Longobardi, infine, che scendono in Italia contro il volere di Bisanzio, anche se forse con il segreto accordo di Narsete, illuso di usarli contro altri potenziali nemici dell'impero, e che quindi non la occupano in forza di un Fedus, ma proprio in seguito alla rottura di esso, non esercitano il diritto di conquista, ma, dopo le disordinate ruberie dei primi anni, ritornano volontariamente allo schema dell'ospitalitas, insegnato loro dall'esperienza e suggerito loro dalla speranza che potesse in tal modo essere più facile il surrettizio riconoscimento bizantino del loro dominio, che potesse cioè essere restaurato quel Fedus anche per loro rimasto ideale politico supremo e a lungo insuperato. Come già quegli ostrogoti, i re Longobardi non sembrano volersi arrendere all'evidenza che esso non sarà mai più loro accordato dall'impero, solo dopo un secolo e più di lotte unicamente piegato al riconoscimento dell'uti possidetis. Per ragioni politiche generali, Bisanzio ha negato ai Longobardi la restaurazione di un Fedus che non poteva non essere una pura finzione e che anzitutto apparteneva ad un sistema politico scomparso perché abbandonato dal suo propugnatore, divenuto conscio della sua inanità. Questa aspirazione, o piuttosto questa ostinata e primitiva speranza, è stata non di meno quella che ha per i Romani fermato la mano dei Longobardi, il regno dei quali, anche per il persistere di quell'ideale, è per molti rispetti l'ultimo di quelli romano-germanici. Nel secolo VIII, tuttavia, Liutprando e i suoi successori hanno intuito che il loro regno doveva, per quanto tardivamente, seguire l'evoluzione di quelli dei Visigoti e dei Franchi e che quindi i suoi valori politici ideali non potevano pertanto restare quelli del passato. Logorata dalla lotta faziosa, ma soprattutto estenuata dalla dissoluzione del patrimonio magico tradizionale su cui era fondata, agli esordi di quello stesso secolo è esclusa dal regno la secolare dinastia Letinga, che non aveva in fondo saputo superare i suoi limiti arcaici, onde come primordiale era in gran parte rimasta la sua concezione del potere, così sempre più superata era rimasta la sua visione politico-diplomatica, ferma nell'impossibile sogno del Fedus. Il Rex Langobardorum tenta ora con maggior determinazione di divenire quel Rex Italiae che fugacemente a Girulfo e poi Cuniperto avevano pensato di dover diventare, onde Longobardi e Romani, già ormai molto avvicinati ed assimilati nella religione anzitutto e dal censo e dai modi di vita, debbono affiancarsi anche politicamente e giuridicamente. Se non che ancora una volta la monarchia si vale di situazioni che si sono create ben oltre al di fuori della sua capacità di intervento, e ben prima che le leggi di Astolfo riconoscano istituzionalmente la virtuale parità delle due genti, queste hanno già molto proceduto sulla via della fusione, e non solo nelle città e tra i ceti elevati, ma anche nelle campagne e tra i monti, nei luoghi cioè ove i mutamenti giungono sempre ritardati e ridotti. Insediamenti e sepolcri sono qui ancora non di rado distinti, ma i frammenti di biondi capelli muliebri trovati nelle trombe romane di un villaggio appenninico, vale a dire di un'altra zona montana relativamente impermeabile alle innovazioni, lasciano chiaramente intuire che la commissione delle stirpi ormai generale è progredita, tanto che alla fine del secolo VIII e più nel seguente, la nazio ha sostanza unicamente tradizionale o è ridotta a convenzione legale e formale soltanto.